Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia. Cari amici, ascoltiamo ora il 46esimo versetto della Sura al-Ma'idah, la tavola imbandita. Seguirà la traduzione in lingua italiana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrah wa atainahu al-Injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrah wa hudan wa maw'izatan lil-muttaqin. In nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Facemmo camminare sulle loro orme Gesù, figlio di Maria, per confermare la Torah che scese prima di lui. Gli demmo il Vangelo, in cui è guida e luce a conferma della Torah che era scesa precedentemente, monito e direzione per i timorati. Gentili ascoltatori, vi informiamo che i programmi in lingua italiana dell'IRIB vengono trasmessi tutti i giorni dalle 6.30 alle 7.30 ora di Greenwich e sono ricevibili in onde corte sulle seguenti frequenze: 17.660 kHz pari a 16 metri, 15.480 kHz pari a 19 metri. Il programma serale va in onda dalle 19.30 alle 20 ora di Greenwich e sono ricevibili sempre in onde corte sulle seguenti frequenze: 7.315 kHz pari a 41 metri e 9.755 kHz pari a 31 metri. Questo programma viene trasmesso per l'Italia e l'Europa centro-occidentale. In nome di Dio, salve cari ascoltatori, vi parla Hossein dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran che trasmette da Teheran. La programmazione di stasera lunedì 13 maggio 2013 prevede in apertura il notiziario accompagnato da una breve nota. Nella parte conclusiva vi presenteremo un programma speciale dedicato all'anniversario del martirio dell'imam Ali an-Naqi, la pace sia con lui, decimo imam degli sciiti. Ma ora diamo spazio alle notizie, restate in ascolto. Incomincerei come di consueto con i principali titoli. Iran sale incontro a Jeddah, collega saudita. Siria, Lavrov chiama ministro esteri Egitto. Turchia, marcia contro governo di Erdogan. Incontro a Jeddah tra i ministri degli esteri dell'Iran e dell'Arabia Saudita, rispettivamente Ali Akbar Salehi e Saud al-Faisal, per discutere gli ultimi sviluppi della regione, un colloquio che si è svolto alla vigilia del 13° summit dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica, OCI, sempre a Jeddah. In cima all'agenda del vertice che riunisce 56 paesi, la crisi del Mali. Il capo della diplomazia iraniana dovrebbe delineare la posizione di Teheran in merito alla crisi nel paese africano che nel marzo 2012 ha subito un colpo di Stato. Nel gennaio 2013 il governo francese ha dato via all'operazione Serval con la scusa di fermare l'avanzata dei gruppi legati all'Al-Qaeda. La guerra ha provocato una grave crisi umanitaria nel Mali, costringendo migliaia di persone a vivere in condizioni disperate. Amnesty International ha già denunciato gravi violazioni dei diritti umani, tra cui l'uccisione dei bambini soprattutto nelle zone settentrionali del Mali. Per molti analisti politici, i governi di Stati Uniti e Francia hanno armato i gruppi nel Mali e hanno contribuito a generare un clima favorevole ai loro interessi, fornendo aiuto, sostegno e armi ai settori accusati di fondamentalismo. E ancora una volta la guerra al terrorismo ha giustificato l'uso della forza nelle relazioni internazionali, anche se il vero motivo della guerra nel Mali è il controllo di uranio, oro, petrolio e gas. L'intervento militare occidentale nel Mali si è verificato dopo quello in Libia e in Costa d'Avorio e dopo il colpo di Stato in Niger, tutti allo scopo di instaurare governi corrotti favorevoli alla NATO. Cambiamo pagina. Il ministro degli esteri egiziano Kamel Amra ha avuto un colloquio telefonico col suo omologo russo Sergei Lavrov sulla crisi siriana e sugli esiti dei loro contatti con le parti regionali e internazionali coinvolte nel conflitto. Lo scrive l'agenzia egiziana MENA. I due ministri hanno discusso della conferenza sulla Siria che si ritenere a fine mese. Domani la Siria sarà al centro del colloquio a Mosca fra il presidente russo Vladimir Putin e il premier israeliano Netanyahu. Una manifestazione contro la politica anti-Damasco del governo del premier turco Erdogan nella città di Reyhanlı, nella regione di Hatay, a pochissima distanza dalla Siria, scossa da un duplice attacco bomba che ha provocato oltre 40 morti 13 maggio 2013. Afghanistan, 10 civili, tra cui 4 donne e 3 bambini, sono stati uccisi dall'esplosione di una mina lungo una strada nella provincia di Kandahar, nel sud dell'Afghanistan. Lo riferisce la polizia. Un furgoncino ha urtato una mina nella provincia di Arghistan. 10 persone sono rimaste uccise, tra cui 4 donne e 3 bambini, ha detto Abdul Razzaq, capo della polizia della provincia considerata un bastione dell'insurrezione armata dei talebani. Almeno 19 persone, fra cui 2 bambini, sono rimaste ferite a New Orleans da colpi d'arma da fuoco sparati durante una parata per la festa della mamma. 3 persone, non i 2 minori, sono state ricoverate in condizioni gravi. Secondo le autorità non si tratta di un atto di terrorismo, ma di violenza di strada, un problema sempre più grave in questa città della Louisiana. La polizia sta dando la caccia a 3 sospetti che sono fuggiti dopo gli spari. Questi fatti non devono rimanere senza risposta, ha dichiarato il sindaco della città in una conferenza stampa davanti all'ospedale dove sono stati condotti i feriti. Qualcuno sa cosa è successo. L'unico modo di fermare questa violenza è chi ci aiuti, ha aggiunto, invitando i cittadini a collaborare con la polizia. Mary Beth Romy, portavoce dell'FBI, ha dichiarato che si tratta di un atto di violenza di strada, escludendo ipotesi di un attacco terroristico. Il presidente della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha nominato un nuovo ministro della difesa. È un generale poco noto, Yang Yong-nam. Precedentemente è stato comunicato che occupava la carica di comandante del corpo dell'armata nordcoreana. Libia. Si contano almeno 15 morti e molti feriti in un'esplosione verificatasi nei pressi dell'ospedale El Jalla di Bengasi, nel nord-est della Libia. Lo riferisce la TV satellitare Al-Arabiya, che cita una fonte ufficiale locale. Secondo i media libici, la deflagrazione è stata provocata da un'autobomba parcheggiata nei pressi dell'ospedale. Tra le vittime si contano donne e bambini. Gentili ascoltatori, era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione e tra poco con il commento. Africa, le compagnie minerarie derubano il continente, la denuncia degli esperti. Le compagnie minerarie internazionali spogliano il continente africano, sottraendo ai suoi governi almeno 38 miliardi di dollari all'anno attraverso pratiche di corruzione, paradisi fiscali e altri stratagemmi finanziari. A denunciarlo non sono le solite organizzazioni non governative o voci della società civile, ma esperti di primo piano della comunità internazionale, come l'ex segretario generale dell'ONU, Kofi Annan, l'ex dirigente del Fondo Monetario Internazionale, Michael Kamdesus, o l'ex presidente nigeriano, Obasanjo, tutti membri del gruppo di lavoro sull'Africa, autore di un rapporto reso noto durante il Forum Economico Mondiale dell'Africa tenuto nei giorni scorsi a Città del Capo, in Sudafrica. Non solo centinaia di aziende minerarie titolari di concessioni in Africa sono società offshore registrate in paradisi fiscali, ma la frode fiscale che colpisce l'Africa è di dimensioni allarmanti. Secondo i membri della Commissione, l'evasione ammonta ad almeno 38 miliardi di dollari ogni anno, una somma superiore agli aiuti mondiali allo sviluppo del continente. L'esempio emblematico della Repubblica Democratica del Congo, oasi delle risorse naturali, ma ultimo paese della graduatoria in materia di sviluppo umano, viene citato nel rapporto dei saggi. Tra il 2010 e il 2012, scrivono, il Congo ha perso almeno 1,36 miliardi di dollari di introiti a causa della sottovalutazione delle quote minerarie vendute alle società offshore. Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. L'imam Ali An-Naqi, la guida. Gentili ascoltatori, in occasione dell'anniversario del martirio del decimo sacro discendente del profeta dell'Islam, l'imam Ali An-Naqi, la pace sia con lui, vi presentiamo questo programma nella speranza di poter far conoscere a voi questa figura luminosa della religione islamica. A tra poco. Ali al-Hadi, la pace sia con lui, decimo imam, nacque a Suria, vicino a Medina, il 15 di Zulhijja, nell'anno 212 dell'Egira. Il decimo imam, la pace sia con lui, visse nell'epoca in cui regnava il califfo al-Mutawakkil della dinastia Abbaside, che nella storia islamica è diventato famoso per la sua malvagità e crudeltà verso le genti della casa, ovvero i sacri discendenti del profeta dell'Islam, e fece anche abbattere il mausoleo dell'imam Hussein, la pace sia con lui, e le case circostanti. Il califfo Abbaside maltrattava l'imam in molti modi e a volte lo mandava allo zoo e faceva aprire le gabbie delle bestie per spaventarlo. Talvolta lo invitava alle sue feste e gli offriva vino che l'imam rifiutò sempre di bere dicendo «Allah è testimone che i discendenti del profeta non hanno mai mescolato il vino con la loro carne e il loro sangue». Durante queste occasioni l'imam, la pace sia con lui, ammoniva il califfo con queste parole «O Mutawakkil, molti re orgogliosi e potenti prima di te hanno vissuto nel peccato e oggi non rimane alcuna traccia di loro. Pensavano che i tiranni e la tirannia fossero eterni, invece la morte li prese presto. Non si resero mai conto che dovevano lasciare i loro regni e le loro ricchezze per la tomba e la polvere». In queste occasioni il califfo si vergognava del proprio comportamento. Suo figlio fece infine avvelenare l'imam, la pace sia con lui, che raggiunse il martirio il 3 di Rajab nell'anno 254 dell'Egira, a Samarra, in Iraq, dove è sepolto. Oggi il suo mausoleo viene visitato giornalmente dai pellegrini che da tutto il mondo vanno a manifestare la devozione all'imam. Per ordine divino, il decimo imam aveva nominato suo successore e undicesimo imam è suo figlio Hasan al-Askari. La pace sia con lui. Ora che abbiamo appreso quale fu il tragitto generale della gloriosa vita dell'imam, ci occupiamo un po' di più della sua personalità. Secondo i testi storici, l'imam era veramente il migliore del suo tempo per devozione e conoscenza della religione, saggezza e bontà. L'imam era il decimo successore del profeta, il decimo dei 12 uomini che per volontà di Dio guidano la comunità umana dopo la dipartita del profeta. La storia ce lo descrive sempre con il sorriso sulle labbra, in stato di perenne preghiera. Camminava con modestia e con un particolare portamento. Aveva un vestito semplice, una sorta di tappetino fatto con la canna, sulla quale pregava. Era un mare di bontà ed affetto per tutti. Una volta, quando si trovava in un luogo molto affollato, vide un uomo che aveva la spalla e la mano feriti. L'uomo, che era molto stanco, cercò di passare attraverso la folla, ma qualcosa strappò anche una parte del suo vestito. Allora l'uomo gridò arrabbiato: «Che brutta giornata!». L'imam, che aveva assistito, chiamò l'uomo e a lui chiese di raccontargli cosa gli era successo quel giorno. Dopo aver ascoltato la storia del viandante, l'imam disse: «Tutti i giorni sono buoni. Dio il misericordioso non ha creato giornate brutte e ogni persona riceve il compenso delle sue azioni». L'uomo comprese di avere sbagliato e chiese perdono a Dio per aver detto che esistevano giorni brutti. Un giorno uno dei cortigiani del califfo Mutawakkil, che voleva avvicinarsi al califfo, andò a dire che in casa dell'imam si trovavano nascoste delle armi e che l'imam voleva insorgere contro il califfo. Era notte, ma Mutawakkil mandò subito dei soldati a perquisire la casa dell'imam e i soldati misero al suo quadro la dimora, ma non trovarono niente. L'imam stava pregando, ma lo costrinsero ad andare dal califfo. Quest'ultimo, che non aveva motivo per accusare il sacro discendente del profeta, lo liberò. Il cortigiano però da quel giorno ebbe grande rimorso per aver fatto una cosa del genere a colui che era il migliore uomo del tempo sulla terra e la guida dei musulmani. Per questo in seguito si vergognò della sua azione e andò a scusarsi pentito. L'imam Ali al-Naghi, la pace sia con lui, viene chiamato Hadi, la guida, perché la sua parola era motivo di salvezza e felicità della gente in vita. Il malvagio califfo Mutawakkil lo trasferì con forza a Samarra proprio per impedire il suo diretto contatto con la gente e fece molto anche per metterlo in cattiva luce, azione in cui non riuscì mai. Abu Abdullah Junaidi, studioso contemporaneo dell'imam, disse: «Giuro su Dio che lui, l'imam Hadi, è la migliore persona sulla terra e il migliore uomo creato da Dio». Yazdad, medico cristiano del suo tempo, disse ancora: «Se vi è una persona che conosce tutte le scienze, è proprio lui. È stato portato a Samarra per evitare che la gente si riunisse intorno a lui. Con la sua presenza, il governo si sente in pericolo». Thank you. Il malvagio califfo Mutawakkil, che credeva di poter mettere in cattiva luce l'imam davanti alla gente e dimostrare che non era la guida religiosa della comunità e dei fedeli, organizzò numerose riunioni tra l'imam e i grandi scienziati dell'epoca, ma ognuna di queste riunioni si trasformò in un trionfo per l'imam e una umiliazione per il califfo e i suoi scienziati. In una di queste riunioni, ad esempio, Mutawakkil convocò due scienziati, Yahya bin Aksam e Ibn Sakit, e a loro ordinò di cercare di fare domande difficili all'imam in modo che lui non possa rispondere. Ibn Sakit chiese all'imam perché Mosè, la pace sia con lui, ebbe da Dio la verga che diveniva serpente come miracolo, mentre Gesù, la pace sia con lui, fece resuscitare i morti e mentre Muhammad, la pace sia con lui, portò alla gente il Corano? L'imam rispose: Mosè, la pace sia con lui, ebbe come miracoli la verga e la mano luminosa perché nel suo periodo la gente si stupiva dinanzi alla magia. Mosè, la pace sia con lui, dimostrò loro dei miracoli che erano al di sopra della magia umana e dimostravano la superiorità della potenza del Signore. Gesù, la pace sia con lui, fece resuscitare i morti, perché al suo tempo la medicina era molto progredita, ma anche in questo caso Dio volle dimostrare che la sua potenza era al di sopra di quella umana. A Muhammad, la pace sia con lui, venne dato il Corano perché nella sua società era la poesia e la letteratura che affascinava la gente. Dopo questa risposta, lo scienziato rimase zitto e capì che era inutile continuare. L'altro, Yahya bin Aksam, chiese delle domande sulle scienze naturali, ma anche lui ricevette le risposte esatte di tutte le sue domande. Sorelle e fratelli musulmani, porgiamo ancora una volta a tutti voi il nostro cordoglio per l'anniversario del martirio dell'imam Hadi, la pace sia con lui. L'augurio e la preghiera che abbiamo dinanzi al Signore è che Dio ci dia la felicità di essere autentici seguaci del decimo imam e di essere guidati nella vita dalla sua parola. Grazie per essere stati con noi e che Dio vi protegga. Thank you.